seconda stella destra, questo è il cammino. L'amico immaginario. Poi la strada la trovi da te. Di Giovanni Savarese. Porta all'isola che non c'è. Dicono gli psicologi che avere un amico immaginario da bambini sia normale, serve a crescere e poi svanisce. Noi però i nostri amici immaginari non li facciamo andare via, anzi cerchiamo di incontrarli tutte le volte che possiamo per rivederli e rivederli e rivederli ancora. Benvenuti all'amico immaginario. Viaggio nella paura in un mondo di mostri e incubi, quello che ci impone il nostro amico immaginario di oggi. Un viaggio nell'oscurità, tra spettri, licantropi, freak di vario genere, serial killer ispirati da antichi demoni e chi più ne ha più ne metta. Certo, se volessimo incontrarlo davvero dovremmo prendere un aereo, scendere all'aeroporto londinese di Heathrow, salire su uno Yellow Cab e farci portare appunto a Londra, in una zona piuttosto centrale, non lontana da Hyde Park. Probabilmente la ragione del nostro viaggio sarebbe un problema da risolvere, non di quelli però normali, tipo una moglie infedele, un socio in affari inaffidabile, una persona scomparsa da cercare. Probabilmente avremmo una storia di fantasmi da raccontare, di donne leopardo, di morti viventi, oppure di campagne e villaggi misteriosi. Al tassista comunque dovremmo dire: per favore mi porti in Craven Road, al numero 7, e dovremmo citofonare Dog, Dylan Dog. La morte che arriva, la morte schifosa, la morte lasciva, la morte che vola, la morte normale, che cela del mondo pietosa ogni male. La morte che vive, la vita che muore, la morte, la morte, la morte e l'amore, che aspettano insieme il grande giudizio e non hanno mai fine, non hanno mai inizio. Una filastrocca macabra a tema la morte per introdurre senza dubbio alcuno il nostro amico immaginario di oggi, Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Camicia rossa, giacca nera, jeans e Clarks ai piedi, una faccia incredibilmente somigliante, e non è un caso, a quella di Rupert Everett. Altezza dichiarata 1,85 m, e citiamo lo stesso Dylan Dog, pagina 71 dell'albo 250. Una storica avversione per cappotti e ombrelli, perché dice sono un'invenzione inutile, soprattutto quando non piove. Ma a Londra piove spesso e Dylan è altrettanto spesso malato, febbricitante, raffreddato, e questo per quanto riguarda i malanni umani, senza considerare quelli invece provocati dai mostri, dagli stregoni e dai demoni con cui spesso si confronta. Ma andiamo in ordine e sentiamo una scheda di presentazione del nostro amico immaginario, Dylan Dog. L'origine del nome, deciso dal suo creatore, Tiziano Sclavi, arriva dritta dritta dalla letteratura e dal poeta gallese Dylan Thomas. Sclavi affibbiava infatti questo nome a tutti i suoi personaggi nelle prime fasi di realizzazione. Nel caso del nostro amico, il nome è rimasto definitivamente, con l'aggiunta di quel Dog che gli costa tante prese in giro. Decisione di Sclavi è anche quella di far somigliare Dylan all'affascinante attore britannico Rupert Everett e di farlo abitare in Craven Road al numero 7, in una Londra gotica e decadente. Anche in questo caso la scelta è una citazione. Craven Road, in omaggio a un maestro del genere horror, Wes Craven, padre a sua volta degli incubi della serie cinematografica di Nightmare. Ma torniamo a Dylan Dog. Veste sempre allo stesso modo e ci tiene molto al suo look. Camicia rossa, jeans Levi's, giacca nera e Clarks ai piedi. Non indossa mai nient'altro, eccezion fatta per un Montgomery e un cappotto, utilizzati però in situazioni climatiche estreme e in casi sporadici. Dylan ha un passato da alcolista ed è diventato astemio, anche se in alcuni casi lo abbiamo visto fare uno strappo alla regola. Il suo storico assistente, Groucho, lo definisce un astemio che si dimentica spesso di astemiarsi. Groucho, appunto, l'assistente che assomiglia non solo per le fattezze a quel Groucho Marx, comico e scrittore del secolo scorso. Dylan, che nemmeno fuma, ha diverse fobie, dalla claustrofobia alle vertigini. Non prende l'aereo ed è vagamente ipocondriaco. Nel tempo libero suona il clarinetto, ma l'unico pezzo che riesce a suonare dall'inizio alla fine è il Trillo del Diavolo di Giuseppe Tartini. E nemmeno troppo bene. È sempre alle prese con la costruzione di un modellino di galeone, che spesso finisce distrutto in tutto o in parte, e non ha interesse per gli aggeggi della vita moderna. Ama la musica, la poesia e la lettura. Ah, se volete avvalervi dei suoi servizi, la tariffa, almeno fino all'albo 145, è di 50 sterline al giorno più le spese. Dylan Dog è unanimemente considerato la creatura di Tiziano Sclavi, anche se lui stesso racconta che Dylan nacque da lunghe discussioni e analisi insieme all'editore Sergio Bonelli. Ma di certo non ci sarebbe l'indagatore dell'incubo se non ci fosse stato Sclavi. Persona molto schiva e riservata, Sclavi non ama le telecamere e vive piuttosto isolato dal mondo con la moglie a Milano, dove colleziona libri e dischi. In una rarissima intervista che abbiamo scovato su internet e realizzata per il canale Cult Network, Tiziano Sclavi parla del rapporto tra se stesso e Dylan Dog, oltre a svelare qualche dettaglio sulle origini del suo personaggio. Io non ho tutte le sue qualità, non ho la sua bellezza, non ho la sua capacità di avere così tante fidanzate, non avevo, adesso sono sposato, non posso più averle. Quindi ha molto di me, diciamo dal punto di vista, uso una parola grossa, ideologico, non molto di me dal punto di vista della vita. Io non ho mai avuto una vita così. Come prima idea era nato in maniera totalmente diversa. Era un detective alla Chandler, molto triste, molto anche banale, devo dire. E grazie alle discussioni in redazione con Bonelli e Canzio l'abbiamo trasformato, l'abbiamo reso diverso, gli abbiamo dato una spalla che non era prevista, Groucho non era previsto, era un personaggio solitario, il classico detective col cappello pieno di pioggia che va nella strada con i vapori che salgono dai tombini. La storia di Dylan Dog, del fumetto di Dylan Dog, è una storia che inizia quasi 30 anni fa. Saranno 30 anni esatti, infatti il 26 settembre del 2016. Nello stesso giorno del 1986, la data ufficiale di copertina era ottobre 1986, usciva il numero 1 del nuovo mensile a fumetti Dylan Dog, soggetto e sceneggiatura di Tiziano Sclavi, disegni di Angelo Stano e copertina di Claudio Villa. Anno di nascita 1986, prima uscita il 26 settembre con il titolo L'alba dei morti viventi, per diventare il terzo fumetto più letto in Italia dopo Tex Willer e Topolino. Tiziano Sclavi crea gli albi a fumetti per l'editore Sergio Bonelli, un albo al mese con una storia conclusa, solo 8 quelle pubblicate in 2 puntate. È Sclavi il primo a scrivere le storie di immediato successo, verrà poi affiancato da molti altri, ritornerà attivamente tra il 2006 e il 2007. Le prime uscite hanno 96 pagine in bianco e nero e 4 di copertina. Il colore è riservato ai numeri multipli di 100, ai compleanni ogni 10 e agli speciali. Dal 18 in poi si aggiunge il frontespizio, a seguire la quarta pagina fa posto alle rubriche. I primi 10 anni di Dylan Dog sono stati festeggiati con il numero 121, Finché morte non vi separi, la storia più lunga mai pubblicata in un solo albo, che racconta l'amore con Lilly e il primo incontro con Groucho. Oltre al mensile, mensile, ci sono uscite speciali, annuali o semestrali: Dylan Dog Special dal 1987, l'Almanacco della Paura dal 1991 e dal 93 Albo Gigante Dylan Dog, nel 98 Maxi Dylan Dog, dal 2007 Dylan Dog Color Fest. Già dal 1990 sono partite anche le ristampe e l'autunno del 2014 dovrebbe essere il momento della svolta con le nuove storie con Roberto Recchioni come curatore della serie. Bentrovati all'amico immaginario. When we wake in the morning, girlfriend, you know you will have known me. Ci sono tanti elementi ricorrenti nella vita del nostro amico di oggi, Dylan Dog, a partire dalle persone che popolano il suo mondo e di cui ovviamente parleremo. Ci sono elementi noti e altri misteriosi. Tra le cose conosciute c'è la sua auto, per esempio, un maggiolone cabrio bianco targato DYD666, il numero per antonomasia per gli appassionati dell'occulto. Un'auto che ne ha viste di tutti i colori, tornando al maggiolone, un'auto distrutta in pezzi mille volte, ma tornata ogni volta come nuova. Oppure il già citato galeone, quello che Dylan costruisce e ricostruisce centinaia di volte, che sarebbe in realtà, leggiamo su internet, un veliero del 600. Tra i misteri, o meglio gli elementi non chiariti fino in fondo, c'è di sicuro quello dell'età di Dylan, che non è appunto definita con precisione. Si sa solo che dovrebbe avere poco più di 30 anni. I riferimenti precisi in alcuni albi sono discordanti, ma sembrano comunque convergere sui 33 anni, che sarebbe poi l'età di Tiziano Sclavi nel 1986, anno dell'uscita del fumetto. Il perché dei riferimenti poco chiari e di un passato non del tutto scritto per Dylan Dog l'ha spiegato lo stesso Sclavi nell'intervista mandata in onda su Cult Network. Misteriosamente, a un certo punto i lettori vogliono sapere il passato del personaggio. Io sono contrario, però l'ha fatto Indiana Jones, lo devo fare pure io, insomma. Io gli ho costruito un passato tutto un po' fantasy, in questo senso il numero 100 è molto fantasy e quindi un passato aperto a qualsiasi cosa, potrebbe essere andata così piuttosto che in un altro modo, però personalmente sono per il personaggio senza passato, mi piaceva che rimanesse più misterioso. Del suo passato sappiamo per certo che è stato agente di Scotland Yard agli ordini di uno dei suoi migliori amici, l'ispettore Block. Ma il mondo di Dylan Dog è fatto di molte altre persone, primo tra tutti il suo assistente personale. Well, I'm certainly grateful for this magnificent washout. Now I'd like to say a few words. Hello? I must be going. I cannot stay. I came to say non mi sembrate molto sveglia. A proposito di gente sveglia, sapete perché il pomodoro non dorme? Perché l'insalata russa. Voi siete pazzo. Volete dire come quel bovino che non si preoccupa del morbo della mucca pazza perché crede di essere un cavallo? Basta, ho capito. But I am telling you. Il suo vero nome è Julius Zaccaria, per tutti è Groucho, vista la somiglianza con il comico Groucho Marx, di cui riprende anche le battute. Il nome glielo ha dato Dylan stesso, è il suo assistente, quasi un fratello, anche se spesso minaccia di licenziarlo. È il collaboratore più fidato, insieme a Botolo, meticcio randagio, salvato dal detective e che più volte lo salverà. Il rapporto padre-figlio invece è quello che più si avvicina alla coppia Block-Dylan. Block è l'ispettore capo di Scotland Yard e Dylan è stato uno dei suoi agenti e suo vero figlio ne soffrirà arrivando alla tossicodipendenza. Deferente con l'autorità, sensibile alla vista dei cadaveri e timoroso di non arrivare alla pensione. Due pari d'Inghilterra, l'inventore Lord Wells, che ha lo stesso nome dell'autore della Guerra dei Mondi, e Lord Chester, che vive nel manicomio di Harlech. La sensitiva più esperta di Londra è Madame Trelkowski. Dall'altra parte ci sono il professor Adam, scettico nei confronti del paranormale, e Geoffrey M. Gideon, professore di geometria e vicino di Dylan. Il professore lo odia dopo aver subito e condiviso avventure con lui. E a proposito di Groucho, nella realizzazione di questa puntata abbiamo fatto una piccola scoperta. Al posto dell'assistente baffuto, Dylan ha davvero rischiato di averne uno diverso, senza baffi ma con un'evidente gobba. La rivelazione ce l'ha fatta Giuseppe Montanari, classe 1936, uno degli storici disegnatori di Dylan Dog. Il primo numero uscito con la sua firma per la grafica fu il 3, Le notti della luna piena. Ma ecco la rivelazione. Già, non dimenticherò mai il mio povero babbo. Quando questo capitava a lui, beh, sa che cosa soleva dirmi? Cosa diceva? Quando la sorte t'è contraria, hai mancato te il successo? Smetti di far castelli in aria e va a piangere sul... La particolarità è che il personaggio di Groucho non era Groucho. Io avevo fatto Marty Feldman, cioè era una prova, no? Era Frankenstein Junior, Marty Feldman, e poi dopo la Sclavi, d'accordo con la redazione, hanno preferito cambiare e fare un Groucho. Io avevo una tavola, diciamo, già chinata, già fatta con Igor, che ovviamente mi è rimasta perché è stata cambiata successivamente inserendo il personaggio di Groucho. Insomma, abbiamo rischiato sul serio di avere Igor, anzi Igor, come assistente di Dylan Dog. Tra poco torneremo a sentire Giuseppe Montanari, storico disegnatore, ma prima evadiamo un'altra importante pratica. Non possiamo infatti non sottolineare come tra le caratteristiche del nostro ci sia una sorta di serialità. Dylan è davvero un amatore seriale, un vero Latin lover, ma possiamo dire senza cattiveria o cinismo. Semplicemente non resiste, si innamora tutte le volte. Clienti, vittime, passanti, fantasmi, purché di bell'aspetto, Dylan non riesce a non finire a letto con questa o quella ragazza. E del suo rapporto con le donne sentiamo in questa scheda. Esprimi un desiderio. Io esaudisco tutti i desideri. Vorrei che ti innamorassi di me. Io sono già innamorata di te. Non te ne sei accorto? Ha il nome di un poeta e l'aspetto di un attore. Difficile risultare indifferenti al gentil sesso con queste caratteristiche. Praticamente ogni cliente donna, almeno nelle prime indagini, finiva nel suo letto. Non storie di grande importanza, piuttosto il contrario, ma ci sono donne fondamentali nella sua vita, tutte con un destino tragico. La prima è Morgana, la madre naturale, irreale, lontana e irraggiungibile, con il nome di una strega e insieme di un miraggio. Sempre soltanto in sogno sarebbe avvenuto il matrimonio con Lily Connolly, terrorista dell'Ira, condannata a morte e amata veramente. L'amore adolescenziale di Dylan è Marina Kimball, tornerà a visitarlo da morta. La seconda fidanzata si chiama Alison Dowell. Della sua morte Dylan riterrà responsabile per sempre Martin Mister. Ancora una fine tragica per Rachel Murray, figlia del proprietario di un'azienda che progetta androidi. Le americane sono la prostituta Bree Daniels e Kim, come l'attrice Novak, che è l'impersonificazione della strega dell'Ovest, quella del mago di Oz. Torniamo alla storia di Dylan Dog, del nostro personaggio e quindi del fumetto che ce l'ha fatto scoprire, e torniamo a parlare con Giuseppe Montanari, uno dei padri dal punto di vista grafico del nostro amico immaginario di oggi. Montanari è esordito nel mondo dei fumetti nel 1954, con una carriera passata per il genere western, ma anche e soprattutto per quel fenomeno anni 70 dei fumetti erotici, da ricordare la lunga collaborazione con un altro fumettista, Ernesto Grassani. Partiamo proprio da questo. Lei deve pensare che Grassani sono più di 40 anni che collabora con me, cioè è venuto che era, diciamo, ragazzo, non era ancora sposato, quindi è venuto nel mio studio, loro e io avevo uno studio con diversi disegnatori, e io ho visto subito che c'erano delle grosse potenzialità, cioè una grossa fantasia, insomma è un fior di professionista. Io poi negli anni, anche in contemporanea con Grassani, quando avevo smantellato lo studio per molti motivi, era era rimasto anche Piccoli, Claudio Piccoli, che adesso poi io avevo portato un 4-5 anni fa in casa editrice a Bonelli, sta facendo Giulia, e prima di lui era Monti, cioè mi facevano le matite che io poi ripassavo a china, rifacendo quasi completamente il viso, no? Perché doveva avere la mia impronta. E proprio questo è un punto davvero interessante. Come funziona il processo che porta da una sceneggiatura di un albo di Dylan Dog alla sua realizzazione? Me lo chiedono in tanti. Io ricevo il testo, la sceneggiatura, no? Che è di 94 pagine, la leggo più volte e poi scelgo, perché alcune matite, cioè diciamo il 25-30% le faccio io completamente, cioè la tavola, no? Per le sequenze, per esempio, glielo spiego, tutte in casa in Craven Road, nello studio di Dylan, nell'ufficio di Block, e le panoramiche di Londra, cioè quando sono sul Maggiolino e viaggiano per Londra, sono tavole che faccio completamente io. Il resto, il 70-75%, sono matite che fa Grassani dopo alcune mie indicazioni, che però adesso sono molto molto relative, perché, ripeto, è un professionista, quindi quando lui mi porta le matite io devo cancellare quasi completamente la traccia in matita per i visi, perché devo dare la mia impronta, capito? A quasi 30 anni dalla sua nascita, Dylan Dog e le sue storie sono cambiate. Vedremo come e soprattutto approfondiremo il futuro di questo fumetto con chi si occupa di dargli una nuova gioventù, l'attuale curatore Roberto Recchioni. Parliamo però di questa evoluzione a partire proprio dalla parte estetica, dalla grafica. Giuseppe Montanari. No, ma sicuramente in termini grafici. Io stesso, se lei ha la bontà di guardare il numero 3 e guardare i maxi che stiamo facendo adesso, c'è una bella diversità di tratto. Ovviamente si è evoluto in fase moderna, c'era più righe, c'era forse, ma era dovuto anche ai testi, c'era più atmosfera, ma perché erano i testi di Sclavi. E dell'evoluzione invece dal punto di vista delle storie ha parlato Tiziano Sclavi in un'altra rarissima intervista, questa volta andata in onda su Rai 3 all'interno di uno special sui fumetti dal titolo Nuvole Parlanti, per la regia di Giancarlo Soldi. Sentiamo proprio Tiziano Sclavi che parla dell'evoluzione delle storie di Dylan Dog. Fin da bambino, direi, fin da bambino, ragazzo, fino ad allora, ero molto appassionato di horror, splatter, soprattutto splatter, mi piacevano tanto gli squartamenti, quelle cose lì. Poi col passare del tempo i gusti cambiano, anche chi scrive. A un certo punto mi ero anche stufato di questo, dell'horror, dello splatter. Ho preferito fare storie più surreali in un certo periodo. E poi, cosa che se scrivessi probabilmente cercherei di fare ancora, ho tentato di mandarlo il più possibile verso la commedia, tipo Arsenico e vecchi merletti, ecco. Ben trovati all'Amico Immaginario e al nostro incontro con Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Allora, vi abbiamo raccontato degli altri personaggi del mondo di Dylan, di quelli umani, ma il vero mondo del nostro detective dell'occulto è popolato di mostri, licantropi, vampiri, fantasmi, alieni e tanti cosiddetti freak, cioè le persone che una volta venivano definite fenomeni da baraccone, i diversi. Ne parliamo con la scrittrice Daniela Catelli, vera esperta di horror e autrice del manuale del genere horror Chuck si trema. Daniela, quali sono i mostri che vanno per la maggiore oggi? Intanto io partirei da quelli che adesso sono anche più attuali, che anche in Dylan Dog ricorrono tantissimo, le revenant, quelli che ritornano, gli zombie come li vogliamo chiamare, e quindi quelli, diciamo, che più ultimamente ci ossessionano sembrano essere appunto gli zombie, sia in TV, no? Abbiamo visto tutti la meravigliosa Walking Dead e le revenant, questa serie francese bellissima, anche se non sono zombie nel senso classico, è più una serie atmosferica che horror. e poi appunto ovviamente i vampiri e insomma i lupi mannari, però i vampiri hanno avuto un po' un calo, no, rispetto a quelli brutti e affascinanti, però perché malvagi che conoscevamo. Poi c'è stata questa rilettura adolescenziale, no, su cui forse lo stesso Dylan non sarebbe tanto d'accordo. E non a caso gli zombie, forse la manifestazione della maggiore paura collettiva dei nostri tempi. C'è un collegamento, secondo te, tra quello che temiamo come società e i mostri della nostra immaginazione? Sì, assolutamente, intanto perché l'horror è sempre stato, diciamo, lo specchio privilegiato, no? Per lo specchio oscuro attraverso cui appunto la società esprime le sue paure, spesso anche inconsce, no? Quindi la cosa interessante è quello che non sempre gli stessi registi che esprimono si esprimono in questo genere, a parte Romero, Carpenter e quelli più tra virgolette politicizzati, spesso non ne sono nemmeno consapevoli. Per me il ritorno degli horror è proprio degli zombie, scusa, è proprio questo discorso, no? L'anonimato, l'anonimizzazione di questa società, la globalizzazione, per cui tu ti senti comunque circondato da nemici che poi spesso, come nella serie The Walking Dead, non sono appunto gli stessi zombie, perché bene o male quelli sai come farli fuori, no? Basta colpirli in testa. Però sono le persone, sono i sopravvissuti, quelli che cercano di conquistarsi la loro zolla di terra in un mondo devastato, e quindi è come se noi vedessimo tutti gli altri come nemici. Secondo me lo zombie esprime benissimo la paura del diverso, ma anche la paura degli altri, di quelli come noi, che noi però percepiamo come nemici. Tant'è vero che Tiziano Sclavi, come Dylan Dog stesso, hanno fatto proprio il motto del maestro dell'horror Romero, quel "gli zombie siamo noi", che nella filosofia dilaniana diventa "i mostri siamo noi". Un tema forte nelle storie di Dylan Dog è proprio quello della diversità. Siccome l'horror è proprio un genere che si rivolge in prevalenza a un pubblico non solo adulto, ma anzi di preferenza adolescenziale, Dylan Dog secondo me ha avuto tantissima presa proprio sui ragazzi per questo fatto, perché l'adolescente è comunque diverso e Dylan Dog è un diverso, no? Chi altro vivrebbe con un clone di Groucho Marx che spara cavolate in continuazione e comunque amerebbe così affrontare e vivere col suo lato oscuro? Cioè la persona che meno si riconosce in se stesso è l'adolescente, che quindi privilegia questo mondo oscuro. Ci sono stati sicuramente le precedenti, anche letteratura, però Dylan Dog ha questa originalità che secondo me l'ha fatto apprezzare al pubblico italiano, che in genere non è così, non ha questa consuetudine con l'horror. Noi siamo un popolo solare, no? E sono più i nordici che hanno consuetudine con queste tematiche oscure, gotiche, mostruose. E ha riportato, a me piace, insomma, io Dylan Dog l'ho letto, a un certo punto ho smesso, riconosco, però ho letto insomma i numeri storici e mi piace questo fatto che abbia riportato l'horror, lo abbia reso di nuovo popolare, come facevano una volta per esempio i film di Mario Bava, di Riccardo Freda o di Lucio Fulci, no? Grazie a Daniela Catelli e alla sua guida all'horror Chuck Sitrema. Nella mia vita ho visto di tutto: vampiri, mostri, alieni. Sono perfino stato l'ultimo uomo sulla Terra. Ma tutto questo non conta. Conta che ancora oggi sono scettico. Che mi innamoro ogni volta che faccio l'amore con una donna diversa. Ho un assistente insopportabile con baffi e ciglia finta. Un armadio pieno di camicie rosse. Ma giù da ballerino. Qui c'è un problema. Sì. Un enorme problema. Sì, un enorme problema. Un gigantesco problema. Ehi, piantala! Le zanzare. Ispettore Block. Ciao vecchio, sono Dylan. Ammiro le bellezze di Venezia. Beh, ma anche il posto comunque non è male. Grucio. Come? Niente. Non lasci perdere. Prego. Grucio, sei licenziato. Quello che avete sentito è un brano di un film, tecnicamente un fan film, o anche detto fan movie, vale a dire un'opera realizzata senza scopo di lucro da uno o più appassionati. Il fan movie in questione si intitola Dylan Dog, la morte puttana, scusate la citazione, di Dennis Frison, ed è disponibile su YouTube, dichiaratamente un omaggio a Sergio Bonelli. Ci serve questa citazione per introdurre un tema spinoso, quello del rapporto del nostro amico immaginario con il cinema, un rapporto difficile che ci riassume Chiara Pizzimenti. Irrisolto, perché il perfetto film su Dylan non c'è, e insieme conflittuale, perché quelli che ci sono hanno portato più critiche che altro, è il rapporto di Dylan Dog con il cinema fra trasposizioni e fan movie. Il primo esemplare non è un film ispirato al fumetto, ma una storia che parte dal romanzo di Tiziano Sclavi, della morte e dell'amore, e che ha lo stesso titolo. Non so come è cominciata l'epidemia, so solo che alcuni cadaveri di notte si risvegliano. Io li chiamo ritornanti, anche se non capisco perché abbiano tanta voglia di ritornare. Non vivo solo, ho un aiutante, Gnaghi. Sulla sua carta d'identità c'è scritto: segni particolari tutti. È il 1994, il protagonista, Francesco Della Morte, è interpretato da Rupert Everett, alle cui fattezze è ispirato il detective nel fumetto. Ci sono elementi delle strisce e della filosofia dylaniana di Sclavi, non il fumetto riportato al cinema però. L'intento era invece proprio quello di far vivere Dylan Dog sul grande schermo nella trasposizione cinematografica del 2011. Obiettivo non raggiunto in Dylan Dog il film, che ha come protagonista Brandon Roth, che era già stato uno spento Superman. Più di un appunto viene dai fan che non trovano Groucho ma Marcus, per problemi di diritti con gli eredi dei fratelli Marx, si ritrovano a New Orleans, che niente ha a che vedere con la lugubre Londra, e ai piedi del detective ci sono le Converse. Esiste l'indipendente Il Cane Russo, passato su YouTube e ispirato alla storia Incubus, ed è proprio la rete a dare il meglio, con i contributi degli amanti di Dylan. I fan movie rendono merito all'investigatore dell'incubo, solo per citarne due, La morte puttana e Vittima degli eventi. E allora veniamo proprio al fan movie di cui abbiamo accennato, Dylan Dog, Vittima degli eventi. Un fan movie diverso dagli altri, dobbiamo dirlo, per impegno, passione, professionalità e anche qualità. La pellicola è di Luca Vecchi, sceneggiatore, e Claudio Di Biagio, in questo caso regista, giovani autori che sono ricorsi al crowdfunding, metodo di autofinanziamento sempre più sfruttato per progetti di questo tipo. Si tratta di un mediometraggio della durata di 50 minuti. Siamo con il regista, Claudio Di Biagio. Prima di tutto, Claudio, perché un film su Dylan Dog? Beh, io leggo da quando leggo Dylan Dog, da quando leggo, quindi è come se fosse tornare un po' alla prima cosa che mi ha mosso dentro la passione, o comunque la curiosità verso questo tipo di mondo. E la cosa bella è che quando poi ci siamo uniti in questo progetto io e Luca, da subito abbiamo capito quale fosse la strada a prendere, cioè ragionare sul personaggio e fare qualcosa che fosse sì, legato all'immaginario del personaggio, all'immaginario del fumetto, di quello che è stato fatto, detto e disegnato, insomma, i 30 anni di storia del fumetto, ma soprattutto metterci molto del nostro. Quindi lui nella storia, io nella regia, abbiamo cercato di fare qualcosa che potesse essere nuovo, fresco e soprattutto attinente al nostro tempo, perché purtroppo è quello la maggior parte delle volte il problema poi con un personaggio come quello di Dylan Dog, quindi non riuscire ad essere attinenti, non riuscire ad essere plausibili, ecco, nel contesto in cui ti vai a collocare. Il cast, è bene dirlo, è composto di attori veri, non solo fan che si prestano alla recitazione, anzi ci sono anche alcune guest star. Due sono note: Milena Vukotic nei panni di Madame Trelkowski, la medium, e Alessandro Haber nel ruolo invece di un inedito ispettore Block. Claudio, cosa puoi rivelarci oltre questo del film? Allora, la cosa principale di questo film è che è una storia basata su una leggenda vera, che poi è un po' un paradosso, ma è così, nel senso che siamo a Roma, abbiamo dovuto adattare il nostro Dylan a Roma, e questo vuol dire sfruttare Roma, sfruttare l'enorme storia di Roma, e quindi andare a pescare una storia vera e basarla su questa vicenda. Non, ovviamente non posso dire la storia perché rivelerei il finale, perché è un giallo comunque, quindi sarebbe bello che durante il film gli spettatori, magari chi conoscesse la storia, arrivasse insomma ad avere la concezione del finale man mano durante il film. Quello che posso dire è che comunque Dylan Dog in questa storia rivelerà comunque il decadentismo e il romanticismo che è tipico della sua figura, e sarà una storia secondo me anche attinente e plausibile al nostro tempo e al nostro luogo. Prima di chiudere, Claudio, dove e come vedremo il vostro film? Ci saranno passaggi in qualche sala? Ci sono varie, diciamo, uscite tra virgolette del film, nel senso che di base la prima cosa che abbiamo detto è che rimane ovviamente vera, e che il film sarà disponibile ad un certo punto su YouTube in modo gratuito. Andando a parlare delle sale, appunto, dicevo, prima di essere disponibile su YouTube, l'ordine di uscita sarà Verso fine ottobre ci saranno delle tre proiezioni che sono state, diciamo, programmate da molto tempo a Roma, Milano e Napoli. Stiamo capendo dove farle, con dei fan che hanno, del film, che hanno donato al film per avere questo tipo di incontro. Subito dopo stiamo organizzando una sorta di tour di distribuzione nelle sale, ovviamente gratuitamente, perché noi non possiamo staccare il biglietto, perché non avendo i diritti per lucrare su questo film che è no profit, facciamo in modo semplicemente che le persone possano godere del film nella reale qualità. Quello che stiamo cercando di fare è far vedere il film a più persone possibili live, con noi in sala, parlando, sentendo cosa è funzionato, cosa non ha funzionato, che cosa è piaciuto, e subito dopo appunto sarà disponibile sul web. Capo, posso permettermi un piccolo appunto? Porte che scricchiolano, luci che si spengono, ombre sui muri, e tu che corri in un vicolo, Grucio la pistola! Grucio, per favore, stiamo lavorando, dai! Ma sono dei cliché! Non ci vuole un genio a capire che i film dell'horror, Dylan, iniziano così! 100 anni di storia del cinema, 100 anni, Grucio, capo! Questo caso per noi è vitale. Quant'è? 8, 9 mesi che non lavoriamo? Lavorare? Ecco, io lavoro. Se non ti va di venirmi dietro, rimani a casa, rispondi al telefono, così magari ogni tanto fai qualcosa di utile. È tutto molto molto interessante. Glielo spieghi tu alla creatura che sta arrivando? Bentrovati all'ultima parte dell'Amico Immaginario. Dulcis in fundo, o quasi, dedichiamoci a parlare del futuro del nostro amico immaginario. A quasi 30 anni dalla sua prima apparizione nelle edicole italiane, Dylan Dog sta per rivivere una nuova stagione, a partire proprio dal prossimo autunno. I fan, ma anche gli addetti ai lavori alla Bonelli Editore, sentivano da tempo la necessità di una svolta, di una ripartenza. E allora facciamo una chiacchierata con l'uomo che sta orchestrando questa operazione, che genera tanta attesa nei fan, Roberto Ricchioni, definito la rockstar del fumetto italiano. Sceneggiatore e disegnatore, per quanto ci riguarda, soprattutto curatore di Dylan Dog da circa un anno. L'uomo dietro la ripartenza del fumetto, una ripartenza però particolare. Ce la facciamo spiegare proprio da Roberto. Roberto Ricchioni, come la definiamo questa operazione? Sto facendo una battaglia, perché per me è un downgrade, nel senso, io quello che intendo è se inizialmente hanno iniziato tutti a dire Dylan 2.0, ma io quello che stiamo cercando di fare è di portare Dylan a quello che era, cioè allo spirito originale di un fumetto inquietante, imprevedibile, che ponesse domande e non desse risposte. Quindi la mia idea è, se vogliamo usare un termine americano, è back to the basic. Per essere davvero back to the basic ci deve necessariamente essere una volontà, una presenza di Tiziano Sclavi. Io so che è così, che ci dici? Per troppi anni si sono scimmiettati gli stilemi di Tiziano fino a svuotarli del tutto. E quindi la nostra intenzione è quella di riportare a dare un senso a tutto quello che Tiziano ha fatto e ha creato per il personaggio. Tutto nasce da Tiziano, nasce dalla sua volontà di rinnovare il personaggio e di ridargli freschezza, quindi partita proprio da una richiesta, una lettera scritta di Tiziano, che ha detto, scriveva proprio che voleva un recupero di determinate atmosfere e faceva il meno come possibile traghettatore di Dylan verso questo ritorno alle origini. Ci siamo seduti a un tavolo e abbiamo iniziato a parlare di come la vedevamo. Avevamo una visione abbastanza omogenea di quelle che erano le cose che non andavano più e di quelle che erano le cose da recuperare, e quindi siamo partiti a lavorare. Io ho fatto una serie di proposte su che cosa volevo introdurre all'interno delle storie di Dylan. Il primo anno, cioè quello che sta finendo in questo momento, si è trattato principalmente di un lavoro di messa a punto di storie che erano già in magazzino. Da settembre inizia la fase 2 e sono le storie che nascono proprio da quello spunto iniziale. Andiamo sul concreto, nel senso, ti chiedo quali sono i tempi e i modi di questa ripartenza. Da quando in edicola, in sostanza? Sì, a settembre, con l'albo che si intitola Spazio Profondo, in edicola appunto a fine settembre, si ricomincia con un albo speciale, perché sarà a colori, avrà una copertina particolare, tutta una serie di cose, scritto da me e disegnato da Nicola Mari, e poi si prosegue con l'albo successivo, che invece sarà in bianco e nero ma di una lunghezza maggiore, scritto da Paola Barbate e disegnato da Bruno Brindisi, in cui ci sarà un momento storico, ovvero sia il pensionamento dell'ispettore Bloch, che non uscirà dalla serie ma assumerà un ruolo nuovo che nella nostra idea è per renderlo più dinamico e più presente, anche perché Bloch è uno dei miei personaggi preferiti. E questa della pensione dell'ispettore Bloch è sicuramente una delle novità più rilevanti. Ce ne puoi raccontare qualcun'altra? Dylan Dog rimarrà il nostro solito Dylan Dog? Arriva un nuovo arcinemico, visto che Xabaras, il nemico storico di Dylan, è fuori dai giochi perché Tiziano si è stancato di vederlo evocare per risolvere le situazioni. Sarà un nemico su cui ho pensato a lungo, perché mi sono posto la domanda di chi sono i cattivi del mondo oggi, dov'è il malvagio, e è un cattivo che è strettamente legato al nostro mondo attuale. Si chiama John Ghost, è il capo di una strana azienda e è moralmente e caratterialmente antitetico a Dylan, è un personaggio molto nelle mie corde, per molti versi simile al John Doe che ho creato qualche anno fa. Dylan rimarrà sempre Dylan, quello che cercheremo di fare è dare meno per assodato determinate cose. Tu per esempio citi il rapporto con le donne, io non ho voluto cambiare il rapporto con le donne di Dylan perché è quello, però avendo una sensibilità diversa da quella di Tiziano ho deciso di incominciare a guardarlo anche sotto un punto di vista critico, quindi ci sarà una storia in particolare che si dovrebbe chiamare Il cuore degli uomini, che analizzerà proprio il modo in cui Dylan si relaziona alle donne, visto che alla fine è un eterno romantico che si innamora sempre, eppure è anche un amatore seriale perché avrà avuto più di qualche centinaio di donne che spariscono un mese dopo l'altro. Ho letto anche che ci sono novità riguardo proprio alla scrittura, ai dialoghi in particolare. Ci dici qualcosa anche di questo? Beh, in generale vogliamo dare una svecchiata al linguaggio. Siamo passati dal voi a lei, che il voi è la voce tradizionale del fumetto Bonelli, mentre lei è molto più vicino alla narrazione moderna. E in generale io sto cercando di dare una forte snellita a quello che viene chiamato lo spiegone Bonelli, cioè quando i personaggi spiegano le cose a uso del lettore. Ci saranno dialoghi un po' più dinamici, in generale vorremmo riportare, perché in realtà Tiziano quello faceva, la narrazione essere molto più veloce, molto più fresca rispetto a quanto era in tempi recenti. Roberto, approfitto della tua presenza per chiederti, poi ti salutiamo, se quello che almeno per noi si avvia ad essere il miglior film su Dylan Dog, e cioè Vittima degli eventi di Luca Vecchi e Claudio Di Biagio, ha la tua benedizione, a parte gli scherzi, cosa ne pensi? No, il lavoro di Claudio Di Biagio e di tutto il suo gruppo è straordinario, che è poi la ragione per cui io mi ci sono avvicinato e abbiamo collaborato in termini di consigli, di pareri e di visione. Quello che si ha l'impressione in questo momento, anche per l'attenzione che Dylan è tornato ad avere in tempi recenti, è che ci sia voglia di Dylan Dog, ci sia voglia di recuperare un personaggio, un vecchio amico, che forse sarà, sai, quei vecchi amici che ogni tanto ti capita di non sentire più e dici ma oggi devo fargli una telefonata, e grosso modo è quello. Restiamo per un minuto ancora sul tema dei fan movie, perché dobbiamo citare un'altra opera, un altro fan film di appassionati. Si tratta di Dylan Dog, il Trillo del Diavolo di Roberto D'Antona, un altro mediometraggio realizzato con un budget molto basso. Nonostante questo, vincitore come miglior fan film 2013 al Cartoomix Fan Film Festival di Milano, più qualche altro premio e citazione. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Mi chiamo Dylan Dog, sono un indagatore dell'incubo. Per gli appassionati, con una semplice ricerca su YouTube è possibile anche trovare molte puntate dei radiodrammi che Radio Rai ha realizzato partendo dagli albi di Dylan Dog ormai alcuni anni fa. Ma in rete si trova molto, molto di più. Sentiamo. Sono i fan a farla da padroni in rete quando si parla di Dylan Dog. La ricerca con Google produce quasi 7.900.000 risultati. dai dylandogofili.com a mydylandog.it, da cravenroth7.it a dylandogfanclub.org, passando per le pagine dedicate di thrillingdetective.com e crimecitycomics.com. Il sito dell'editore, sergiobonelli.it, ha una sezione Dylan Dog aggiornata e rimanda direttamente alla pagina Facebook ufficiale, che ha 23.000 mi piace, quasi altrettanti ai like, sulla pagina Dylan Dog personaggio pubblico. Anche Twitter raccoglie appassionati, Dylan Dog Web Club, @DylanDogWorld e @CravenRoad7. Il detective va anche su eBay, in particolare con i fumetti storici messi all'asta. Attenzione ai falsi, soprattutto per quanto riguarda il numero 1. Gli originali sono più leggeri e hanno la copertina meno lucida. Su YouTube 115.000 risultati, ma da consigliare è la ricerca di immagini con il fumetto originale e le variazioni sul tema. La popolarità di un personaggio, i nostri amici immaginari popolari lo sono praticamente tutti, passa di certo anche per un altro mondo, anche questo digitale, quello dei videogiochi. E il nostro Dylan in questo universo di beat è entrato non solo una volta, seppure con risultati non proprio esaltanti. Ma dove diavolo sono finito e come? Penso proprio che questa volta l'indagatore dell'incubo dovrà assumere se stesso. L'impatto di Dylan Dog sugli appassionati, soprattutto nei suoi anni d'oro, ha portato alla nascita di due videogiochi. Il primo nel 1992 si intitolava Attraverso lo specchio, pubblicato da Simulmondo per Amiga 500. Qualche anno dopo vide alla luce un gioco tipo platform per Commodore 64, Gli Uccisori, molto criticato perché decisamente mediocre. Il grande ritorno videoludico avvenne invece nel 1999 con un'altra avventura grafica totalmente in terza persona, titolo affascinante Dylan Dog Horror Luna Park, prodotto per le edizioni delle italiane Bedroom Studios e New Media Around in esclusiva per PC. Horror Luna Park è un classico punta e clicca in cui il protagonista è ovviamente il nostro Dylan, gioco molto debole sulla trama, definita sempliciotta e troppo lineare, assolutamente lontana dagli intrecci del fumetto. Il gioco si svolge in due ambientazioni, Luna Park del titolo e una piccola frazione di Londra. Tempo medio impiegato per concludere il gioco, un paio di giorni. Unico punto davvero di forza, i fondali, disegnati a mano. Anche questa puntata dell'Amico Immaginario è finita. Giusto il tempo per ricordarvi, se volete, di cercare su Facebook l'Amico Immaginario, il profilo della trasmissione. Un grazie a Chiara Pizzimenti, Roberto Frangipane e un grazie a voi. Un saluto da Giovanni Savarese e al prossimo Amico Immaginario.